Sei di Lizzano? Sì, abito qua da 6. Allora, ne ho 24, sono 31, quanto fa? Boh. 7. Ok. Da quanto? Ah no, se... ti piace vivere qui? Sì, io all'inizio, aspetta, ci investono qua. Ci mettiamo un po' più in qua? Allora, io mi sono trasferito qua perché lavoravo qua all'inizio, anni fa. Ci sono dei rumori che danno fastidio. Rumori mi danno fastidio? Sì, la mia vicina di casa ha un cane che ulula la mattina alle 7:30. Sì, quello sì, quello mi dà fastidio. Ciao, ciao. E i, lavori, e i rumori che le piacciono? I rumori mi piacciono, il merlo che canta in primavera. E i pro e i contro di dove vive? Allora, i pro... è un paesino, Lizzana, che ha una buona, una bella comunità. E hanno un bel teatro, un bel oratorio. E è vicino a Rovereto, a piedi arrivi facilmente in centro Rovereto. Gli affitti non sono carissimi. E i contro, che magari è un po'... magari delle volte un po' noiosa, un po'... silenzioso, no. In quel senso lì, diciamo, ecco.